cuore, piove sul tetto. Oggi per uscire chissà cosa metto. Mi metto il cuore in pace, che di ascoltarmi nessuno è capace. Gente che arriva, gente che è arrivata, e l'acqua passata è già dimenticata. Gente che ormai sputa solo sentenze, e che sa dare soltanto avvertenze. Sei troppo bello, non hai un difetto, ma un difetto anche quello. Quello sì, quello che avresti da dire, ma ormai nessuno ti sta più a sentire. Perché anche quando qualcuno, qualcuna qualcosa, sì qualcosa da dire, viene difficile starla a sentire, viene difficile starla a ascoltare. Il tempo passa e passa la notte vola e tu ti senti sola. Sì, sola di stare in mezzo alla gente, che non è neanche poi così divertente. Bene, c'è chi fa male, c'è chi si fa per sentirsi normale. Normale chi, cosa, perché, quando è normale in fondo che cos'è? Ipocrisia,